Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Benvenuti ad Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa Regionale. In studio Isabella Scandaletti e Margherita Giacchi. In questa ultima puntata dell'anno andremo ad approfondire il bilancio di esercizio della Regione per il 2023. Sentiamo dunque che cosa prevede la manovra. L'Assemblea Legislativa ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione della Regione per il 2023. Grazie ai fondi europei della programmazione 2021-2027 e alle risorse del PNRR, la manovra da 13 miliardi di euro è in aumento rispetto al 2022 di circa 500 milioni e proprio la programmazione dei finanziamenti europei è considerata una delle leve fondamentali per le politiche di investimento e di sviluppo emiliano-romagnolo che la Regione sosterrà con 373 milioni di cofinanziamento in 3 anni. Tra i principali impegni della manovra, la conferma del fondo regionale per la non autosufficienza per 80 milioni all'anno e il sostegno ai redditi delle famiglie con ISEE più basso per oltre 100 milioni di euro. Anche per il 2023 la Regione non alzerà le tasse. Sentiamo Lia Montalti del Partito Democratico. È un bilancio che guarda la coesione sociale perché puntiamo sulla sanità e sul welfare. Un bilancio che pensa alla comunità con 107 milioni per le famiglie in incentivi legati ai ticket sanitari, al trasporto pubblico, al nido con la regione. Un bilancio che punta sul futuro con 2 miliardi di euro di fondi europei che verranno investiti da qui ai prossimi anni. Come sempre, a fare la parte del leone nel bilancio regionale è la sanità, che impegna circa l'85% delle risorse. Per sopperire ai mancati trasferimenti nazionali relativi alle spese Covid e al caro energia, la manovra prevede la costituzione di un apposito fondo per la sanità di 85 milioni di euro, oltre ai 15 milioni già stanziati con la recente legge per il sostegno alle aziende sanitarie contro il caro bollette. E proprio l'organizzazione della sanità regionale con i suoi costi è al centro delle dure critiche al bilancio avanzate dal relatore di minoranza che ha chiesto alla Giunta un cambio di passo. Ecco cosa ha dichiarato Michele Facci della Lega. Questo bilancio sconta il problema sanità, problemi strutturali che si trascinano da anni in termini di programmazione e poi naturalmente in termini di conti. Ad oggi abbiamo una differenza fra valore della produzione e costi di 622 milioni. Non è giustificabile con il Covid, non è giustificabile con nessuna altra misura. C'è un problema che va risolto e abbiamo chiesto alla Giunta di farlo. Sul pacchetto di provvedimenti del bilancio abbiamo sentito i due relatori di maggioranza e di minoranza. Nel lungo dibattito in aula abbiamo anche raccolto le posizioni dei presidenti dei diversi gruppi assembleari. Marcella Zappaterra, del Partito Democratico, esprime soddisfazione per i provvedimenti che giungono in un momento difficile a causa della crisi energetica e del post-pandemia. È il bilancio migliore che si potesse fare nel contesto dato. La sanità è in forte difficoltà a causa del mancato rimborso delle spese Covid dal governo. Quindi stiamo spendendo risorse del nostro bilancio perché la sanità continua ad essere per noi una priorità, però in questo bilancio garantiamo comunque 2 miliardi di investimento, garantiamo tutti i cofinanziamenti ai fondi europei, non tocchiamo il welfare e ci sono più di 100 milioni per le famiglie. Una netta bocciatura alla manovra arriva dalle opposizioni. Sentiamo Matteo Rancan della Lega. Un bilancio dove sappiamo esserci un ammanco importante riguardo la gestione della sanità, sappiamo che comunque a livello generale la sanità in Emilia Romagna non funziona e funziona male, liste d'attesa, pronti soccorsi periferici e sanità territoriale che non c'è. Sappiamo che la sanità cuba la maggior parte del bilancio della regione, non possiamo più permettere che si vada avanti in questo modo. Per Marta Evangelisti di Fratelli d'Italia si tratta di un bilancio negativo, caratterizzato dal buco in sanità che ingessa tutta la manovra. Apprezzamento invece per l'approvazione di 3 proposte di emendamento avanzate dal suo gruppo. Un bilancio negativo condizionato dal buco sul bilancio sanitario, abbiamo presentato diversi emendamenti, di cui 3 sorprendentemente accolti, uno sull'accesso ai servizi regionali per coloro che non sono nativi digitali, l'altro per il ripristino delle terapie di agopuntura per le pazienti oncologiche e l'altro l'impegno della Giunta a istituire corse serali e notturne nella tratta Porretta Terme e Bologna. Sempre dall'opposizione anche Marco Mastacchi di Rete Civica boccia la manovra. Sentiamo perché. Il grande timore che abbiamo tutti, in particolare chi segue territori marginali, è che le inevitabili riorganizzazioni che dovranno essere fatte sulla sanità vadano a incidere ancora una volta sui terreni più marginali, sui territori più marginali che già stanno soffrendo parecchio. Critiche e voto negativo al bilancio anche da Forza Italia. Sentiamo Valentina Castaldini. Un bilancio che preoccupa. Preoccupa non solo per la sanità, ma anche nel suo complesso. Si utilizzano fondi strutturali europei per non guardare al futuro. Si cerca di coprire un buco, però si arriva fino al 2025 con un grande incognita. Bisogna fare tagli seri, bisogna essere attenti e bisogna fare politiche per non scontentare i cittadini più deboli. Bocciatura anche da Silvia Piccinini dei 5 Stelle, che ha avanzato una proposta accolta dall'Aula. Questo è un bilancio che non ci soddisfa, presenta diverse criticità a partire dalla sanità e dal disavanzo. Quello che temiamo è che queste criticità poi vadano a ricadere sulle persone più fragili, quindi su tutta la fascia del sociale. E noi abbiamo presentato una proposta su sovraindebitamento proprio per evitare che nuove persone ricadano in nuove povertà. Giulia Gibertoni del gruppo Misto parla di bilancio incolore. Ancora autostrade, proroga le attività estrattive, rinvio della tariffazione puntuale sui rifiuti, soldi per uccidere animali, l'invocazione al ministero che intervenga sul lupo e il solito bilancio che guarda al passato e, diciamo così, miliardi che non miglioreranno spesi ma che non miglioreranno l'ambiente in nulla, anzi. Oltre al Partito Democratico, anche gli altri gruppi della maggioranza approvano la manovra con diversi accenti. Sentiamo Federico Amico di Emilia Romagna Coraggiosa. Un bilancio in una situazione difficile per quanto riguarda il tema della sanità, che richiede uno sforzo particolare, cosa che vogliamo fare come regione a sostegno della sanità pubblica. In particolar modo poi abbiamo sottoscritto e presentato un ordine del giorno per far sì che i fondi alla cultura in fase di assestamento possano essere reintegrati. Giudizio positivo anche da Giulia Pigoni della lista Bonaccini. È un bilancio che lascia invariate le tasse per le imprese e per i nostri cittadini, un bilancio che è sicuramente incentrato sulle coperture dei costi sanitari. Abbiamo oltretutto fatto una proposta attraverso un ordine del giorno che è stato approvato dall'Assemblea per chiedere alla nostra giunta regionale di impegnarsi e di farsi portavoce presso le sedi opportune istituzionali, il governo e il Parlamento, perché appunto l'Italia ratifichi il MES e almeno in quota parte possa accedervi. Nell'esprimere apprezzamento per la manovra che in un contesto difficile lascia le tasse invariate, la capogruppo di Europa Verde Silvia Zamboni mette l'accento su alcune priorità. Il bilancio non prevede aumento della pressione fiscale. Come Europa Verde ci siamo concentrati per portare un miglioramento in termini di compostaggio dei rifiuti alimentari, adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici, sostegno alla promozione dei distretti del biologico, riduzione della produzione di rifiuti di plastica. Siamo al termine della nostra puntata. Le porte dell'Assemblea in questi giorni rimarranno aperte anche a coloro che vogliono visitare la mostra con le statuine del presepe provenienti dalla collezione di Vittorio Pranzini, veri e propri tesori della tradizione popolare bolognese. Sentiamo la presidente dell'Assemblea, Emma Petitti. Una tradizione come quella dei presepi, con queste bellissime statuine in terracotta di Vittorio Pranzini, ci sembra, come dire, una scelta semplice ma diretta, chiara, che parla di un Natale di comunità e che ci porta a stringerci tutti. Con questa mostra vogliamo lanciare i nostri auguri. Assemblea On Air tornerà nel nuovo anno. A nome di tutta la redazione, tanti auguri di buone feste. Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna, programma cura del Servizio Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna. In redazione Margherita Giacchi, Andrea Perini e Isabella Scandaletti. Contributi audio di Davide Landi, Agenzia Dire, direttore Mauro Sarti.